rispondi più al telefono e appendi al filo ogni speranza mia. Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te. E all'improvviso sei fuggito via, lasciando il vuoto in questa vita mia. Senza risposte ai miei perché, adesso cosa mi resta di te? Non c'è il profumo della tua pelle, il respiro di te sul viso, la tua bocca di fragola, non c'è il dolce miele dei tuoi capelli, non c'è che il veleno di te nel cuore. Non c'è via d'uscita per questo amore. Non c'è vita per me più. Non c'è altra ragione che mi liberi l'anima. Incatenata a notti di follia, anche in prigione me ne andrei per te. Solo una vita non basta, no. Il respiro di te sul viso, la tua bocca di...